GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Vacanze di Ferragosto tenuta per le spiagge regionali dopo il boom dello scorso anno, mentre continua il trend dei soggiorni brevi per visitare Trieste. Spesso chi prenota sceglie i bed and breakfast, ma anche queste strutture sono alle prese con il caro bollette e i costi lievitati. Parleremo poi di carceri. Dopo i gravi fatti di cronaca avvenuti negli ultimi giorni a Torino, due donne morte, a Rossano in Calabria. Quindi l'appuntamento di questo pomeriggio Attualis di Comeglians, paese natale di Don Pierluigi di Piazza. 12:17, di nuovo buona domenica da Dario Ronzoni e Rita Micoli. In apertura dunque il turismo, soprattutto parliamo di mare, il meteo si è rimesso e i numeri di Promoturismo parlano di una sostanziale tenuta delle spiagge della regione con Lignano, che però accusa un calo di presenze più consistente. Non è un'estate da record per Grado e per Lignano, ma i numeri confermano una tenuta dopo il boom di presenze turistiche dei primi 5 mesi dell'anno. Da maggio a luglio Grado ha fatto registrare un più 2,4% rispetto al 2022, ma la contrazione è stata del meno 1,2% rispetto al 2019, ovvero prima della pandemia. A Lignano invece il calo è stato maggiore, meno 5,7% rispetto al 2022, sostanzialmente invariato il dato sulle presenze se rapportato al 2019 con un meno 0,2%, numeri forniti da Promoturismo FVG, su cui si basa il commento dell'assessore regionale Bini. Nonostante il meteo avverso che ha penalizzato le località di mare e inciso sulle prenotazioni, sottolinea Bini, i numeri delle presenze turistiche a Grado e Lignano testimoniano una buona tenuta. Significativo è il ritorno degli stranieri in crescita in entrambe le località, più 2,7% a Grado e più 0,3% a Lignano rispetto all'anno scorso. Dopo un avvio di stagione da record, i flussi turistici hanno subito un rallentamento. Ora auspichiamo, conclude Bini, che il meteo rimanga favorevole per garantire a operatori e turisti un buon finale. Da dire che il meteo ha inciso sulle cancellazioni last minute e su partenze anticipate, a risentirne soprattutto gli alberghi, dove il calo registrato si aggira in media intorno al 2,5% a luglio. Nei primi 5 mesi dell'anno, rispetto allo stesso periodo del 2022, a Grado le presenze turistiche erano incrementate del 2,5%, mentre a Lignano la crescita era stata addirittura del più 5,3%. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Non solo grandi alberghi e turisti che visitano Trieste si rivolgono anche alle strutture gestite da privati, ma anche per i B&B però i margini si sono nettamente ridotti. Non solo alberghi, a Trieste la stagione turistica coinvolge anche le strutture extraalberghiere, bed and breakfast funzionano e sono tornati alla pre-pandemia. Tante prenotazioni ma soggiorni brevi o brevissimi, anche solo di una notte. Secondo Fulvia Ercoli, che è la vicepresidente regionale dell'associazione che in città riunisce 30 delle 100 strutture codificate, i margini si assottigliano anche perché i costi per la lavanderia sono saliti. Molti di questi bed and breakfast, che danno un servizio di prima colazione fatta in casa e che per regola devono avere una famiglia che vive nella struttura o nelle immediate adiacenze, si sono tolte dalle maggiori piattaforme online. Costi di servizio troppo alti, anche il 30%, e un monopolio, ci spiega Ercoli, che ne ha anche per un'altra piattaforma con il nome che richiama i bed and breakfast. In realtà il servizio è diverso, si tratta di semplici stanze e appartamenti messi a disposizione, dietro compenso ovviamente, da parte dei proprietari, senza colazione e senza un servizio di accoglienza. Questi appartamenti o mini appartamenti, spesso dal costo di una stanza d'albergo di ottima categoria, rappresentano una consistente parte dei posti letto disponibili a Trieste, secondo una stima, addirittura il 25%. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora uno sguardo al traffico. Confermato lo scenario da bollino rosso, per questa domenica si registrano rallentamenti per il traffico intenso lungo le autostrade della regione tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste, anche in conseguenza di un incidente avvenuto in mattinata alle 10 in direzione Tarvisio e che ha provocato code per 9 chilometri che si stanno risolvendo. Code anche all'Isert in entrata e in uscita da Trieste, ma più contenute rispetto a ieri. E invece il tempo con cielo da sereno a poco nuvoloso sulla regione. Queste sono le temperature registrate alle 11. A Trieste 25 gradi e 5 decimi, con mare quasi calmo, con temperatura di 25 gradi e mezzo. A Pordenone 28 gradi, a Udine 28 gradi e mezzo, a Gorizia 29. A Sappada 21 gradi, su Piancavallo e a Tarvisio 24, Forin di Sopra 24 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 26. In montagna su Lussari 18 gradi e 5 decimi, sullo Zoncolan 19. Sulla costa a Grado 26 gradi, a Legnano 27 gradi e mezzo. La temperatura del mare in entrambe le località è stata di 26 gradi. Ora le previsioni dell'ARPA nelle prossime ore su pianura e costa: cielo sereno con venti di brezza sulla costa e caldo afoso di pomeriggio in pianura. Sui monti cielo sereno poco nuvoloso fino a metà pomeriggio, in seguito si avrà variabilità e sarà possibile qualche locale rovescio o temporale isolato, più probabili verso il Cadore o verso la Slovenia. E parliamo adesso di carceri, sovraffollamento, cure sanitarie, dipendenze, sono alcune delle criticità più gravi a cui in agosto anche nei penitenziari della regione si somma la sospensione di molte attività di formazione e ricreazione per i detenuti. Sovraffollamento, aumento delle situazioni di fragilità, malattia, tossicodipendenza, deficit di risposte sociali e sanitarie, ma soprattutto il problema che nel mese di agosto molte attività interne sono sospese e di conseguenza si accentua la percezione della solitudine e dell'isolamento nella popolazione carceraria. Sono alla base, secondo il garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Udine, dell'aumento dei suicidi e di episodi di violenza tra detenuti. Franco Corleone, garante dei diritti dei detenuti del comune di Udine. È una solitudine che aggrava una condizione già difficile provocata dal sovraffollamento. Un discorso a parte bisogna farlo invece sulle sezioni femminili. Ancora Corleone. Il carcere non è fatto per le donne, così mi disse una detenuta anni fa. E credo che noi dovremmo immaginare che le donne debbano trovare altre soluzioni fuori dal carcere, tranne per casi di delitti gravissimi. Ma sul problema delle carceri scende in campo il SAP, il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, che in una nota invita il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ad attivare da subito un tavolo permanente sulla criticità delle carceri, che vedono ogni giorno la Polizia Penitenziaria farsi carico di problematiche che vanno ben oltre i propri compiti istituzionali, spesso abbandonata a se stessa dal suo stesso ruolo apicale. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Per la rassegna Vicino Lontano Monte, oggi appuntamento a Tualis di Comeglians, paese natale di Don Pierluigi Di Piazza, per la presentazione alle 17 del suo saggio postumo Non uccidere, per una cultura della pace. Ne parlerà insieme a Lisa Clark, vicepresidente di Beati, costruttore di pace, il fratello Vito Di Piazza. Proprio a lui abbiamo chiesto quali sono le riflessioni più importanti contenute nel volume. Questo volume è un'eredità preziosa che ci invita a praticare la compassione contro l'indifferenza, la libertà di coscienza contro il conformismo, l'impegno personale contro la rassegnazione, le ingiustizie, la mancanza dei diritti, i razzismi, le xenofobie, la costruzione e la vendita delle armi. Le riflessioni contenute hanno al centro l'esortazione a non rassegnarci mai all'ingiustizia e alla violenza. Esortazione più che mai attuale in un tempo come il nostro oggi, segnato da gravi diseguaglianze, attraversato da conflitti sociali profondi e in cui la guerra è tornata ad essere un fatto che ci riguarda dal vicino. Le riflessioni sono profonde e sono sollecitazioni all'impegno e perseveranza nella consapevolezza per cui è necessario un altro mondo per non cadere nella disumanità. In chiusura lo sport, il tennis, ricordiamo questo pomeriggio alle 18 la finale dell'ATP Challengers di Cordenons, torneo che ha un montepremi da $80,000, a disputarsi la vittoria di questa 20ª edizione saranno Lucas Neumeier e Matteo Gigante. In semifinale il tennista salisburghese ha superato in 2 set Riccardo Bonadia, idolo di casa essendo nato a San Vito al Tagliamento, mentre Gigante ha sconfitto l'altro azzurro Enrico Dalla Valle, la finale alle 18 sui campi dell'Eurosporting. Era l'ultima notizia di questa edizione del giornale regionale. In regia Federico Comare e Giampaolo Zucchi, in redazione ha collaborato Samantha Gon, da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e ancora l'augurio di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.